quel balcone dove volavano petali di gerani nell'asfalto a crepi. Casa nostra si depositavano architetti che illuminavano di ferro sporco le delizie del tramonto. Non ho in mente quando le formiche camminavano unite, lesse dal sole agostiano. Delle variazioni che non ne posso più. E non ho in mente quando si lavavano i panni che asciugavano sospesi nell'umidità della sera meridionale. Casa nostra si depositavano ingegneri che mettevano staffe di piombo alla naturalezza del mattino. E non ho in mente quando le formiche camminavano unite, messe dal sole agostiano. Da quel sorriso delle variazioni che non ne posso più.